attenzione 10, ora attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Che è avanti? Attenzione sul canale 10, c'è qualcuno? Che è avanti? Avanti, avanti! Che è avanti? Piccando la gabbia. Ti approfittendi. Porca puttana. Aspetta, c'è un giù che mi sta squillando la lana. La mazza di Nivaria. Madonna di Ruggero. Sì, sì, sì. Mi sono dimenticato il bimbo, caro. Acceso. Ha cominciato a squillarmi. Ma è macchina? Non lo so, il dispositivo di Gabriele. Ma lui non c'era in macchina? No, perché quando tu te ne sposti dalla macchina suona. Ecco, ti hai dimenticato, c'è. E allora, Gabriele, cosa c'è che non va? Mamma mia. Ma ho sbagliato il bramo, perché poi ho avvisato tutti i miei parenti. Cazzo. E stai già avanti. Ti arriverà una notifica adesso. Mi... Aspetta che risponda la mia cognata. Maronna. Cazzo. Sì, vabbè, dai, è interessante che non sia successo. Non l'ho sentito, brom. Sì, già l'ho sentito, sì, ma non sapevo se era quello della, del magazzino o della macchina, che cosa era, che allarme era, non lo sapevo. Quella mia, oh via, aspetta che mi sta, mamma mia. Tu non ci avete detto, oh via, bel casino, cazzo. E cosa vuoi dire, di castagne già nei vuoti, se non attendi lì, insomma. Ti devi ricordare, ogni volta che scendi dalla macchina di spegnerlo, così. Mi messaggio allarme. Allora. Hai fatto la cacca, Gabriele? Aspetta che rispondi a Mattia. 2 secondi che lo cambio. Sì, yeah. Eccomi! Gianni, ci sei? Sì, sono qua. Ci sono anche tu. Ma adesso ti avvisa, ma andato in bagno. Mi ha detto è cacca, però molte volte non è chiara, perché molte volte ti dice così, ma non c'è niente, capito? Vabbè, intanto ho messo le patate al forno, tra l'altro le patate al forno sono vicine, va a Napoli. Vabbè, io ieri mi sono mangiato 4 pizzette al taglio, ma erano così buone, belle e calde, l'ho prese sotto casa. E una bottiglia di birra mi sono bevuto. E sono andato a una da chi si abbatta le brigate. E quello che c'è giù, sotto casa mia. Sì. E niente, no, io sono buono, sono buono. Sì, peccato che lo gabbo non è attuale. E io mi devo mangiare i bici, non lo gabbo su io. Cappa. Interrompi il ballo, ma quando il compagno ti ribitti ti fatti tutto lo sorriso, così è. Cosa? No, a me no, c'era lui, c'era il marito, non c'era lì. Ma comare? C'era nel locale di Via Nuova lì, no? Ma comare se ne è andata? E ogni tanto si dà il cambio, ogni tanto viene lì, ogni tanto va lui, capito? Si dà il cambio. Ma che non di là in via Roma? Il locale all'inizio di via Roma, so che ce l'hanno. Fanno colazioni, tutte queste cose qua. Roba da mangiare, portano le pizzette, eccetera. Non lo so. Ma lo sai che me le sto facendo in casa io? Cosa, le pizze? Sì, a te compri la sfoglia, te la fai. Sì, già lo so. Adesso me la deve portare Liliana. Mi ha detto se la volevo che la dovevo comprare, però io prendo le pinze, non la pizza ma la pinza. Ma hai compreso, c'è proprio la soglia fresca per farla. Non l'ha mai fatta con la soglia fresca. Quella rotolata. Sì, più di una volta. Allora, me lo porto in casa un po' di voce io. Oh Jimmy, oggi la patata non col forno a gas, mia madre rivenga, se non mi esce una bulletta che se no che non vorresti manco più a pagarmi. Esagerato, ma cazzo si pinta di l'ultima. L'ultima volta mi è arrivato, mi sembra 150, non me lo ricordo adesso. Non ti voglio dire una balla o 130 forse. Stai pagando troppo, tu. Stai pagando troppo. Ce n'è una che cazzo ti fa risparmiare. Una società che ti chiede risparmio, un mese di soldi. Io l'ho cambiato, ho fatto una gazzata. Chissà perché mi hanno convinto a cambiarla. L'ho cambiata e invece pagavo di meno con quella lì che c'avevo prima. Adesso non mi ricordo mai come ti si chiama. Ha un nome particolare. Invece c'ho il forno a gas e cuciniamo stesso. No. Visto che c'ho questa possibilità, con la bombola si ragiona meglio. Sì. Prima mi è finita l'altro giorno. Mi è finita l'altro giorno la bombola. Cappa. Ma che chiami? A pala stai chiamando. Non ho chiamato a nessuno, c'avevo quella di riserva, già lo sai. Ah, sì. Sì, e chi sa allora voglia. Come vai, Gianni? Ah. Ma quando vuoi, vengo con di più di e basta. Ma fai così. Pure un broppano, e chi sa me. Quella che ho preso io? Sono propano quella. Ma da tanti anni già, Ma quella che costava di meno, tu? Sono cassi visti o cosa so? Oramai dipende. Amate si goza. Per un uso domestico vanno bene tutte e due. Il buttano. Buttano è un pochetto più longio. O è miscela o è propano. Vabbè, comunque quello della Budi mi ha detto come mai non andavo da lui a mettere il gas, e gli ho detto che dopo ho messo l'impianto mi hanno detto di non andare lì perché se no mi si sporcava l'impianto, ma no, sei un buon Giuseppe, a me non mi si butta mai, questo ci ha salvato il pulizio adesso perché gli ho fatto il pulizio, tranquillo vieni qua che... E invece che mi basi i travagli, cammino, mi ha detto non c'è andare lì, guarda dove stai continuando ad andare, a Carica o a Porto Torres, non andare da nessun'altra parte che è tutto brutto, sono gas misti quelli di... Miscela. E ti sporcano l'impianto, mi ha fatto vedere un filtro, a me mi ha tolto il filtro dopo 2 anni, era pulito a tu. Praticamente l'altro che mi ha fatto vedere era tutto tipo cattrame, c'era cioè, dice guarda come ha fatto l'impianto, così ha fatto l'impianto, adesso lo devo tutto pulire con la bomboletta, farlo sciogliere, aspettare, farlo agire e poi pulirlo bene dentro perché tutto è intasato, non cambia più da benzina a gas. Da non so che cosa, non so, magari è questo che vi dà un gas. Quello di Carica io va. No, quello della Budi, non mi ricordo se questo primo o il secondo. Murgia. Che adesso non so se sia ancora lui, c'è un ragazzo adesso, non so se sia ancora lui il padrone. Non lo so questo. Beh, ho comprato un po' di olio per la moto l'altro giorno. In quello al primo? Sì, è buono, è buono, l'ho usato tante volte, però come il Pauerò, come il Barda non ce n'è, però ho usato anche quello, già va bene. E il Barda dove lo cu? Dall'allo motto, per la motto. Ecco, e come mai gli stai mettendo quello lì a tu? Perché la mia moto c'ha i pezzi e gira in alto, capito? Comunque questo della Budi, che cos'è? Agip? Agip. Oh. Compro anche quello, ma quello sintetico, totalmente sintetico. Non ne posso mettere olio minerale, io me la faccio subito. In due giorni no, il pistone no, non esce più, Cioè, quello sintetico compro sempre. E come senti 2000 era? Senti 2000... a 17 mi ha detto che me lo fa. Cosa? A 17 euro al litro per la mia macchina. Lo so che costa così, è come il Fiat qui. Perché se lei ha quanto credi che costi? Costa 17 euro al litro, chi sono bastato per curare lui? Ma è il migliore secondo me il Barda, lo pago appena appena di meno. Non ce ne può essere. Sai come quello lì è buonissimo. Se ti va bene quello continua a mettere quello, altro non c'ha ciambauzzo, perché poi il motore si è avvito un tipo di olio, se mi lungiave magari non andava più bene. Il Bardal è un'altra cosa, è il migliore, cioè secondo me è uno dei migliori, infatti continuerò a mettere quello. Ci vogliono spendere 70 euro per fare il tagliando, ma me lo posso io però. Vabbè, vabbè. Se te lo fai tu, la moto già è facile con la moto lì, anche io nel sì me lo facevo io, cambiamo le candele, faccio tutto io nel sì, ma se tu vai a farlo nella moto come ce l'avevo io, nel Burgman, nel 400, devi smontarne in mezzo telaio per arrivare al motore. No, nella macchina sto parlando. Nella moto cosa fai? Cambi la cinghia ogni tanto. Anzi, adesso all'altro mese mi sa che la cambio. Cambio la cinghia, cambio la cinghia, la candela l'ho già sostituita, ho cambiato il filtro, il mese scorso ho cambiato il filtro dell'aria. Io ho già sostituito la candela ieri. Mettendo la RB9, anche se appena appena più fredda, ma è che adesso d'inverno dovrei mettere la 8, sempre Energy K, no, ma non mi togli da quelle, ne ho provato le Champion, mi si sono bruciati, ma ne nulla da pere. Ma le candele non mi hanno mai fatto difetti, ma le cambio, ma perché ho fatto quei chilometri le cambio, però difetti non me ne hanno mai fatto. La bobina delle candele, quella lì sì che l'ho cambiata. Cappa. Comunque le candele sono se tu noti in Champion ce ne sono pochi, ti ricordi che prima aveva preso piede molto, ce ne sono molto poche, c'è qualche motivo che allora nelle moto ci metteva molto le Champion, mettevano anche le originali erano Champion, anche stanno mettendo Energy K, stanno mettendo tutti, ma è un altro pianeta. Perché sono marche nuove, queste magari sono più all'avanguardia. No, marche nuove, la conosco quasi 30 anni che c'è Energy K, io la mettevamo nel motocarro, Citola ci dava la Champion. Dopo un po' di tempo le cambiamo subito. Cioè, con questa Energy K, no? Cioè, duravano molto di più e il motocarro andava molto molto meglio. Vabbè, io l'ho messo sempre affidato al meccanico, non so manco che cosa rimette a branco di candele, ma mi pare che sia anche a tre piedini. Sempre Energy K mette sicuramente. Ma lui mette marche buone, di tutte le cose, anche i dischi, poi li ha messi in acciaio, perché dice che si arrugginiscono, erano in ferro, ma poi si arrugginiscono così. Ma se in acciaio, cioè questi non ti si arrugginiscono più. Costano di più, ma almeno sono buoni. Mamma mia, mi sono distratto un attimo. Che tu mi fate danno. Vai via, Gabriele, vai via. sono andato a controllare le patate che appunto erano. Ah, ho sentito poco fa facendo la moto, Stavo dicendo che noi già da... sto parlando da 20 anni fa, da 20 anni prima, non avevamo quelle anche nel motocarro, perché erano le migliori, proprio andavano bene, andavano. Se faccio un paragone tra me e l'altro, e quella bambino, hai fatto bene, mettivi quella. Sì. Energy K, ma li ho messi anche nella macchina, li ho messi, anche il ricambista sta portando tutte quelle, sta portando, perché dicono che sono le migliori. Ho messo anche i capi di quella marca, cioè io ho visto forum e coso, cioè la qualità si sente. Capagoia. Ma tu glielo cambi troppo in fretta, lui o cosa, tu devi fare i chilometri giusti, se no prendi il drupo. Adesso questo qua non lascio più che ho lasciato, Ma quanti chilometri mi fai fare? Io 20.000 chilometri quello cambio. Tu sei un pazzo furioso. Ma non ne fa, non ne fa di questi cose, io già. Mica quella macchina è a gas, a massimo 15.000 te lo devi lampare. Guarda che io l'ho controllato e conosco la viscosità, l'ho toccato con le dita viscose e poi è trasparente ancora, non è sporco. Quando l'olio è sporco vuole cambiare. Scappa. Chissà, io lo cambio un po' cosa l'hanno educato, niente che non dovrei educare, non mi fido più, capito? Lo torno a ricambiare. Ma questo c'è da un bel adesso, ho fatto un po' di chilometri, sono andato anche fuori Sassari. Ma c'è la possibilità di farlo tu, che c'è il ponte, dove vai? Se te lo fa fare, tu vai due e basta. Ma cosa, l'altro da una berra su cui giambende. In chi in campagna, mi bocco in chi, lo cambiamo. Devo svuotare la botticella questi giorni. Devo salire e mandare al signor Torino a svuotare la mia botticella. Prossima settimana lo sto cambiando. Cioè, prossima settimana, alla su mesi. Compro tutto e lo cambio. Conservamene un po' anche tu, che lo devo mettere nella serranda. Nella serranda? Nella serranda del garage, già capito. Nelle guide, nelle guide si sono seccate, ci devo mettere un po' di olio con la nafta. Ah, te lo do io l'olio, già ne ho. Un po' di olio con un po' di nafta, se riesco a prenderne poca, anche se un litro minimo ne puoi prendere, no? Così è, quando ne vuoi, ne come parete. Per fornitore con la bottiglia non ti puoi dire andare, mi pare, no? Ma che l'ha detto? Un litro non te lo dà. Non te lo dà un litro, se è automatico non te lo dà. Devi andare nei fornitori dove praticamente ci sono i benzinai. Già te lo date un litro. Ma vabbè, devo andare nei fornitori aperti. Ma già si trovano la tazza, a voi che viene a bestia. Tanto te ne servi bocca a me. Te ne servi. Ma sta andando da gozzo, da... Però che la putti già a bestia domani. Infatti. Devo mischiare con l'olio. Passatelo nella guida, che sa la randa, non la sa più, e tu sai chi la va. Ma è buono un poco di cosa, di RC. Ma non ne avevo in macchina, capito? Ce l'avevo a casa. Non ne avevo. Fa la fatica alzata, ci ha fatto lo strappo l'altro giorno, Salemma. Allora buttaglielo. No, io già ce l'ho in macchina. Come ti propone andare subito? E pure un giorno li puoi pulire, se vuoi mi vuole venuto. Io non ne sarò delle cose, mettevo olio con l'acqua, olio bruciato con l'acqua. E così, io ce l'ho. Già ne ho io olio, a voglia che naccio. Canto ne vuoi. porto un recipiente, lo mettiamo dentro, di quelli quadrati, di quelli rigelati. E io poi me lo pozzo. C'ho quest'occhio che mi sta friggendo, non capisco perché, cazzo. Mi sta bruciando. Comunque sia, lo sai che nella NAM fatto, siccome abbiamo un gasolio di graziato, adesso lo stanno mischiando pure col biodiesel, è troppo asciutto, consigliano di buttare, di mettere olio, capito, nel gasolio, perché è troppo asciutto, ti rovina l'iniettore, soprattutto nelle macchine vecchie. Anche questa di blu fa obbediranno, lo sai. Si intasa tutto il gas e si forma una specie di schiuma bianca e intasa gli iniettori. Fatto un poco di casino, mi ha tanto. Già lo so già. Però nelle macchine un pochino più vecchie consigliano di mettere una misura di olio, capito? Olio due tempi, perché li fa bene. E capisci, per dire, nella tua treno quando fanno il pieno ci mettono un litro di benzina. La benzina è troppo asciutta, mi bigare ozzo, cioè, ci vuole olio nei cose, è troppo asciutto, perché il gasolio è troppo asciutto, però va bene per pure iniettore, ma cazzo, ma se lo tratti, se lo usi nel coso, come si chiama? Se lo usi spesso ci vuole olio due tempi deve buttare dentro, pure di ghisù da 3,55 euro, perché l'aiuta ad essere un po' più siccome è troppo asciutto è fatto un po' di danni. Ma è tutto il gasolio oleoso, cazzo, cosa dici che è asciutto? È oleoso il gasolio. Tu pensa che una volta il rifornitore aveva appena ritirato il furgone nuovo, ritirato dalla fabbrica, ho messo il primo pieno nel furgone al rifornitore, questo qui stava parlando, si è dimenticato a pulire un dappo, poi fare vederci e grazie. Io parto, faccio la curva per andare, e visto per andare verso la strada di Sintino, la strada vecchia, faccio la curva dove ci sono quelle fabbriche di mattoni eccetera, come faccio la curva cazzo mi si gira tutto il furgone, ci qui ci dona sangrusia, manco male che non vedo le macchine. Sai cosa è successo? Guardo cazzo, lo stesso al capo della rampa, sono condurato da dentro, l'ho tappato con una busta che c'avevo. Sono tornato dietro e gli ho detto, cazzo, ma c'è il tappo. Ah, ma ne sono dimenticato, e non fa nulla, cazzo non fa nulla, bisogna che si rompere a mazzetti. Un guato. No, ma adesso è cambiato. Ma all'epoca di adesso rimane più asciutto, capito? Non è più come prima. Perché mi sia biodiesel, capito? Fare nuove normative, aggiramento di balle. Ok, già, ti devo lasciare che devo controllare le patate. E poi devo cucinare i sofficini. Ok, ce la risentiamo. Ciao ciao a tutti, ci sentiamo, buon appetito, io bacio a Gabriele. C'è qualcuno? C'è un canale 10, c'è qualcuno?